Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Se non puoi essere normale, cerca almeno di essere straordinario. Questa potrebbe essere un'indicazione interessante per ognuno di noi. E di certo l'è stata per il personaggio di cui parliamo oggi. Si tratta di uno dei più grandi pianisti jazz contemporanei, gigantesco possiamo dire, al tempo stesso un uomo piccolissimo nel senso letterale della parola, perché alto appena un metro per colpa di una rara malattia genetica. Stiamo parlando del grande Michel Petrucciani, che ci è stato segnalato da molti di voi, tra cui un nostro ascoltatore che si chiama Vittorio Mornato e che io ho in linea. Buongiorno Vittorio. Ciao, ciao Enrico. Buongiorno. Senti, come mai hai voluto che ci hai chiesto di raccontare la storia di Michel Petrucciani? Ma sai, mi è parso che Petrucciani, quello che sì, fosse il tipo adatto al tipo di trasmissione che tu conduci. E credo che tu abbia proprio ragione. Vittorio, sei stato gentilissimo, buona puntata a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ti ringrazio. Eh sì, la diversità che il corpo di Michel Petrucciani mostrava in maniera impietosa non attacca poi la sua capacità di innalzare il suo spirito verso orizzonti grandiosi, forse perché nessuno come lui ha saputo utilizzare la sua diversità per renderla la sua forza. Lo so che sono diverso, ma non ci sto male e non mi sento in colpa per questo, perché io sono così e non mi dà fastidio. Lo so che non sono come gli altri, ma non voglio essere come gli altri. Io suono musica diversa, conduco una vita diversa, mangio diversamente, dormo diversamente. Io sono diverso e sto benissimo. Eh sì, la diversità, e lui diverso lo è fin dalla nascita, 28 dicembre 1962, una nascita terribile. Ma prima di tutto devo spiegarvi bene cosa significa avere la malattia che aveva Petrucciani, cioè l'osteogenesi imperfetta. Ma siccome non sono un medico, ve lo faccio spiegare bene da uno che è medico. La malattia di Michel Petrucciani è l'osteogenesi imperfetta. Si tratta di una fragilità ossea, vale a dire che le ossa sono fragili, si rompono e si deformano. I disturbi della crescita sono un'altra caratteristica di questa malattia. Nelle forme più severe il soggetto resta molto piccolo. A volte è anche affetto da nanismo. E già, ossa fragili, ecco l'atroce caratteristica di questa malattia. Così fragile che al momento del parto, a causa della violenza dell'espulsione, le ossa di Michel si rompono tutte. La famosa maledizione biblica di nascere nel dolore non si limita alla madre in questo caso, ma si tramanda al figlio. Il suo pianto è straziante, è senza speranza. Immaginate un bambino che nel momento in cui nasce si frattura tutte le ossa. La madre lo accudisce per tutta la prima infanzia, diciamo, ma non può impedire che la malattia faccia il suo decorso, e così come non può far nulla neanche il resto della famiglia, il padre Tony e i due fratelli Louis e Philippe. Mia madre faceva molta attenzione a Michel, gli girava la testa ogni tanto perché non si deformasse, perché le ossa erano così delicate che allora bisognava fare molta attenzione, e lei era attentissima. Ma nonostante le cure amorevoli prima di raggiungere l'adolescenza, Michel si romperà le ossa almeno un centinaio di volte e per tutta la vita sperimenterà il dolore. Quando ero più giovane mi succedeva spesso di rompermi qualcosa. Mi rompevo in continuazione. Avevo un programma e mi rompevo una gamba. Avevo un altro programma e mi rompevo un braccio e mi toccava andare in ospedale a mettermi il gesso. E per me era durissima, perché dipendevo sempre dal mio handicap fisico. Però l'infanzia di Michel non è infelice. La sua è una famiglia modesta. Il padre Tony è figlio di un immigrato italiano, fa il musicista, non navigano nell'oro, abitano in una brutta casa vicino all'autostrada. Però c'è la musica, con i due fratelli che suonano il basso e la chitarra, e lui con loro ha un rapporto forte e affettuoso. Suonavamo sempre tutti insieme. In effetti eravamo inseparabili, come i tre moschettieri. Credo che non ci rendessimo veramente conto dell'handicap di Michel. Per noi era talmente naturale che era come se non fosse handicappato. Come ci ha appena detto il fratello, la musica diventa il collante familiare, grazie anche al padre Tony. Insomma, la musica diventa l'arma segreta di Michel. Mio padre faceva musica, viveva per la musica. E Michel ha immagazzinato tutto quello che ascoltava mio padre, le riviste che leggeva, perché era sempre a casa. E il jazz gli piaceva molto. Mio padre mi disse che a 3 anni riusciva già a cantare tutte le melodie. E poi a 4 anni la svolta. A Michel capita di guardare uno spettacolo dove suona Duke Ellington con la sua orchestra. È una rivelazione. Da quel momento decide di diventare un pianista come il grande Duke. Chiede ai genitori di comprargli un pianoforte. Ma le cose non andranno così lisce. Il falco e il gabbiano. Così, a soli 4 anni, dopo aver ascoltato il grande Duke Ellington, Michel Petrucciani chiede ai genitori di regalargli un pianoforte. Però le cose non vanno esattamente come vorrebbe lui, e sentiamo il racconto che ci fa lui stesso. Mi diedero questo bel pianoforte giocattolo che mia madre mi aveva comprato. Ma era un giocattolo, e quando capii che era solo un giocattolo, compresi che dovevo far qualcosa per farmi prendere sul serio. Altrimenti non avrebbero mai capito che volevo un vero pianoforte con il suono di un vero pianoforte. Allora dissi a mia madre di darmi un martello. E lei mi chiese, per farne cosa? Io le dissi, non ti preoccupare, tu dammi solo un martello. Lo presi e ruppi tutto. Ed ero molto contento. Non è che avessi l'abitudine di fare questo genere di cose, ma capii che dovevo compiere un atto terribile per fargli capire cosa volevo veramente. Altrimenti era finita. Non avrei mai avuto un vero piano. E io non volevo perdere tempo, perché non avevo tempo. Non ho tempo da perdere. E come je voulais pas perdre de temps, parce que je suis un mec qui perd pas de temps, je veux pas perdre de temps. È uno strano colpo d'ala. Michel capisce che senza un pianoforte non può esprimersi, la sua vita è perduta. È l'affermazione di una volontà fortissima. Grazie a questo gesto, insomma, lui conquista il suo primo vero pianoforte. Da quel momento non lo lascerà più, anche perché a causa della sua malattia i genitori decidono di istruirlo in casa e Michel esce raramente. Peraltro lo Stato francese gli fornisce degli audiovisivi per metterlo al passo con il programma scolastico, proprio come in Italia, diciamo, no? Ma Michel è sempre più impegnato a suonare, utilizza il materiale in un altro modo. Gli venivano recapitate a casa le cassette didattiche di inglese, francese e così via, che sostituivano la scuola. E lui le cancellava tutte, dalla prima all'ultima, per registrarci sopra la sua musica. E nella famiglia Petrucciani ormai tutti hanno capito che Michel ha qualcosa di straordinario, che non è la malattia, è un fuoco che gli brucia dentro, è la necessità di realizzare il più possibile nel più breve tempo possibile, perché Michel sa di avere aspettative di vita inferiori alla media. Insomma, il tratto dominante diventa quello di condurre un'esistenza in accelerazione continua, deve bruciare ogni tappa lui. E poi naturalmente c'è il talento, e il talento è enorme. Well, I didn't go to school because I studied my piano for so long. Non sono andato a scuola perché ho sempre studiato pianoforte. Quando ero bambino suonavo il piano anche 10 o 12 ore al giorno. Mio padre avrebbe scommesso qualsiasi cosa su di me che sarei diventato un musicista. Disse, dimentichiamoci dell'istruzione, dimentichiamoci di tutto e mettiamolo al pianoforte, perché diventerà un pianista. E anche Michel ormai ha compreso che il suo destino è quello, si abbandona completamente al suo destino, la musica invade ogni minuto della sua esistenza. La malattia paradossalmente diventa la sua grande alleata, perché gli impedisce di fare una vita normale, quindi lui non può uscire, non può giocare con gli altri bambini, non può andare a tirare due calci a un pallone. Lui può solo concentrarsi sulla tastiera. Inizia dalla musica classica, Bach, Beethoven, esercizi che vengono provati a lungo sotto il controllo forse fin troppo serrato del padre, che dal piano di sotto lo sollecita a suonare battendo il manico di una scopa contro il soffitto. Ma nonostante le pressioni paterne, per lui suonare è davvero il paradiso. È una cosa fisica. Quando dentro di me ho una melodia, devo lasciarla uscire, altrimenti mi sento male. È come quando si deve bere quando si ha sete, non se ne può fare a meno. Il suo fisico martoriato trova pace solo quando suona. Peraltro, la stranezza è che le sue mani sono l'unica cosa che ha, diciamo, a grandezza naturale, se mi passate il termine, e forse questo in qualche modo lo agevola. Il suo handicap è meno grave, perché lui il pianoforte lo può suonare come e quanto vuole. Presto la musica classica lascia il posto al blues, al jazz, e intanto, mentre gli altri bambini impazziscono per i supereroi dei fumetti, lui scopre il suo eroe tra i pianisti jazz che studia tutto il giorno. E il suo eroe è Bill Evans. Lui trascorre le sue giornate suonando, ascoltando i dischi del suo eroe. Grazie anche agli anni trascorsi sugli spartiti di musica classica, la conoscenza dell'armonia e il senso del ritmo arricchiscono la sua musica in maniera particolare, e quindi i due grandi poli classici, l'improvvisazione e lo studio, qua si fondono in maniera sublime. Prima dei 10 anni lui comincia già a esibirsi in piccoli concerti privati o a casa d'amici, suonando a fianco del padre, dei fratelli. Gli piace suonare in pubblico, perché quando è davanti al pianoforte lui dimentica tutto, soprattutto il suo fisico, e sa che dove non arrivano le gambe arriva la volontà, la combattività, arriva il suo carattere, che è allegro e solare. Ho paura della solitudine. Non mi piace restare solo, mi piace avere gente intorno, stare con loro, fare il pagliaccio. Mi piace far divertire la gente e che gli altri mi facciano divertire. E le piccole jam session a casa di amici sono solo la prima di tante tappe nel percorso di Michel. La vita, come sempre, sta per riservargli un altro colpo d'ala. Questa volta lui spiccherà un volo che lo porterà molto lontano da casa. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Michel Petrucciani, il grande pianista jazz che, a causa dell'osteogenesi imperfecta, cioè una malattia che ti fa venire le ossa di vetro, diventa un grande pianista. In realtà la musica è la sua salvezza, è la salvezza di questo bambino che non può giocare a pallone, non può fare nulla. Per fortuna è sorretto da un grande talento e da un padre che capisce che questa può essere la sua salvezza, quantomeno la sua salvezza interiore. Ma non va solo così. A 13 anni avviene il battesimo di quello che diventerà uno dei più grandi musicisti del suo periodo. Viene portato a un festival di jazz, c'è un trombettista americano che si chiama Clark Terry, non c'è il pianista. Il padre porta il figlio, Tony Petrucciani porta Michel sul palco, e il trombettista è ovviamente, immaginerete, è imbarazzato, vede questa persona strana, non può certo mandarla via, lo fa salire, gli fa suonare il piano, pensa che sia, come dire, una storia un po' improvvisata, accenna con la tromba una melodia infantile e lui risponde con un lungo assolo di blues che dimostra subito le sue capacità. Clark Terry rimane conquistato per tutta la serata, si offre di fargli da spalla pur di continuare ad ascoltarlo. E così inizia tutto. Dopo il primo ci sono altri festival, l'inizio di un passaparola che a poco diventa una certezza, quella del piccolo pianista francese che suona come un grande musicista jazz. Insomma, poco a poco Michel si rende conto che la sua vita non sarà quella di uno relegato alle quattro mura di casa, non ha nessuna voglia di essere ancora protetto, non vuole stare nella bambagia, vuole scoprire il mondo. L'occasione arriva grazie a un batterista conosciuto qualche anno prima, Aldo Romano, che convince Tony a lasciare andare il figlio a Parigi e dice che se ne occuperà lui, una proposta che ovviamente inizialmente incontra qualche resistenza. Era un idiota, non si fidava di nessuno. Voleva tenere Petrucciani con lui e continuare a suonarci insieme. Era geloso. Ho dovuto lottare per portarlo a Parigi perché il padre non voleva, voleva tenerlo al riparo, quasi come si tiene un mostro in una gabbia. Beh, diciamo che la diagnosi di Romano è spietata e anche un po' impietosa, perché bisogna anche vedere il punto di vista del padre, che ha vissuto per anni lo strazio di un figlio che si frattura braccia e gambe ogni momento, quindi è abbastanza naturale, insomma, una sensazione di iperprotettività nei confronti di questo bambino. Però quando è ora di lasciare il nido, non c'è niente che può trattenere chi è pronto a spiccare il volo, e Michel, malgrado tutti i suoi handicap fisici, pronto lo è, e come. Solo a Parigi può compiere quel salto di qualità a cui aspira. Arriva a 15 anni nel 1977, ottiene il primo contratto discografico, nell'80 incide l'album Flash, che ottiene un grande successo. L'anno dopo, il momento del disco Michel Petrucciani Trio, con Aldo Romano alla batteria e Jean-François Jenny Clark al contrabbasso. Ma Parigi non significa solo suonare coi grandi, ma anche fare vita da grande. Lui a Parigi compie la sua maturazione non solo musicale, coi suoi compagni inizia a fare tutte le cose che i musicisti a grandi linee fanno e devono fare: inizia a fumare, beve, prova droghe, frequenta i bordelli. E per fortuna, nonostante il mio aspetto fisico, sotto quel punto di vista funziona tutto bene. Ero come tutti i teenager, sempre arrapato, e mi piacevano le donne. La sua educazione comincia a compirsi anche con l'abbandonare le sue ultime sicurezze. Si separa da Aldo Romano, che aveva preso un po' il ruolo del padre, che lo portava in braccio ai concerti, lo aiutava a vestirsi, a mangiare, perché fino a 25 anni Michel non riesce a camminare autonomamente. Poi le sue ossa diventano un po' meno fragili e sempre con l'aiuto delle stampelle comincia a potersela cavare da solo. Quando succede questo, lui capisce che è arrivato il momento di fare un altro grande passo in avanti: l'America, il paese da dove arrivano i grandi musicisti jazz che hanno riempito le sue giornate di infanzia. Così nel 1982 il viaggio di Michel Petrucciani, partito dalla Provenza e passato da Parigi, arriva in America, arriva in California, la terra promessa, dove fa il primo importantissimo incontro. Grazie all'amico batterista Tox Dohart, finisce a casa del famoso sassofonista Charles Lloyd, che da tempo ha smesso di suonare, ha iniziato una nuova vita fatta di buddismo, di meditazione. La leggenda racconta che proprio tra le sue letture Lloyd abbia raccolto i segni dell'arrivo di un uomo dalle ossa rotte che avrebbe cambiato il suo destino. Di certo, quando arriva questo omino venuto dalla Francia, decide di metterlo alla prova. Mi disse: siediti al piano e suonami qualcosa. Mi sedetti e iniziai a suonare. E lui scomparve. Così mi dissi: devo averlo annoiato a morte. E invece era andato a prendere il sassofono. Quando tornò, iniziammo a suonare insieme e andammo avanti fino alle 5 del mattino. E sua moglie Dorothy iniziò a piangere e lui invece disse: guarda, credo che Michel sia arrivato fin qui per farmi tornare a suonare e io voglio suonare di nuovo, voglio iniziare di nuovo, Michel resterà qui. E iniziò a fare i programmi. Insomma, è un incontro di quelli fatali che segnano un po' un passaggio epocale della vita di una persona, in questo caso di due. Michel, erano 5 anni che suonava in giro, aveva già pubblicato dischi, in Francia aveva raggiunto una certa notorietà, però era ancora il ragazzino della Provenza con la casa accanto all'autostrada. Adesso era in una grande casa in California, vicino all'oceano, a suonare accanto a un sassofonista di fama mondiale, che per contro però aveva smesso di suonare. Questo incontro si rivelerà determinante. È un sogno che diventa realtà. Quando Charles iniziò a suonare il sassofono, era tutto lì. proprio come nelle registrazioni, perché quando ero un bambino suonavo per conto mio, con mio padre e i miei fratelli, ma tutto quello che sapevo sul jazz arrivava dai dischi. Ascoltavo Miles, Oscar Peterson, tutta questa gente, ma non li avevo mai visti suonare dal vero e tantomeno avevo suonato con loro. And even more play with them. E così per Michelle inizia un momento di ubriacatura esistenziale. L'America è la terra promessa, lui se ne innamora, in sei mesi impara l'inglese, peraltro benissimo, senza accento, che era un po' una rarità per i francesi, e soprattutto in America conosce l'amore per la prima volta. Incontra una ragazza di origine navajo, Erlinda Montano. Dopo un breve fidanzamento i due si sposano. Piaceva molto alle donne. C'erano sempre molte donne intorno a noi e questo gli piaceva. Ricordo che una volta eravamo insieme a Santa Fe e una donna arrivò e iniziò a fargli delle proposte. Io pensavo, ehi ragazza, sono qui anch'io, sono sua moglie. Insomma, piaceva alle donne, diciamo che era un uomo di successo che cominciava anche a diventare ricco, e questo aiuta molto. Ma intanto Charles Lloyd, come promesso, inizia a fare programmi, e il programma è un tour lungo tutta la West Coast. Il successo è tale che i due si imbarcano in una serie di concerti in giro per il mondo, dal Giappone all'Europa, passando per il Festival Jazz di Montreux in Svizzera, dove vincono il Prix d'Excellence. Andare in tour con Charles Lloyd era finalmente entrare nel giro grosso. Io ero solo all'inizio. E quelli sono stati forse i miei anni più belli, perché ogni cosa era nuova. La prima volta in una limousine, la prima volta in un aereo, la prima volta in un albergo a 4 stelle, la prima volta in grandi sale concerto, la prima volta in grandi festival del jazz, dove nel backstage c'erano tutti: Freddie Hubbard, Wayne Shorter, Stanley Clarke, Jimmy Smith. Tutti i miei idoli erano lì. And all my heroes were there. Michel resta qualche anno con Charles Lloyd, è un periodo che è costellato da dischi, da concerti famosi, come quello della Carnegie Hall di New York, è un periodo di amicizia sincera, ma dopo un po' Michel, che è un inquieto e irrequieto per natura, sa di avere poco tempo a disposizione, sente l'orologio che sta accelerando, avverte la necessità di alzare ancora l'asticella. Mentre ero in California capì che volevo restare in America, ma volevo andare in una città dove le cose accadono davvero. E quando misi piede per la prima volta a New York pensai, ah, eccoci qui, questo è il posto dove voglio fermarmi. Where I'm gonna stay. È il 1984, Petrucciani sbarca a New York, dove rimane per il resto della sua vita. Ottiene un contratto con la Blue Note Record, è il primo europeo peraltro che ci riesce. Suona sempre, quando non è in concerto passa da una festa all'altra, cucina per gli amici, inizia nuove relazioni dopo Erlinda, che ha lasciato in California, ha una storia con Eugenia Morrison. Sembra un po' superficiale nelle questioni di cuore, ma non dimentichiamoci che ha iniziato la sua carriera giovanissimo, che siamo a metà degli anni 80, che ha poco più di 20 anni, e soprattutto non dimentichiamo che, insomma, prima di diventare famoso probabilmente non è che abbia avuto tutto questo successo con le donne. Insomma, sta facendo tutto quello che ognuno a 20-25 anni ha il diritto di fare: divertirsi. I was a real sponge. Ero una vera spugna. Ho vissuto tutto fino in fondo, al 150%, completamente. Andiamo lì? Andiamo lì. Vuoi fare questo? Voglio farlo. Vuoi provare questo? Voglio provare. Mi bastava che non ci restassi secco, ma per il resto mi sono preso davvero tanti rischi. Volevo provare tutto e l'ho fatto. Insomma, il periodo newyorkese è esaltante, lui suona con i più grandi jazzisti del momento, Wayne Shorter, Jack DeJohnette, Dizzy Gillespie, Jim Moore, registra album diventati famosi come Power of Three, Michael Place, Petrucciani o The Manhattan Project con Wayne Shorter e Stanley Clarke. Insomma, sono anni formativi ai quali si aggiunge l'esperienza della paternità con la sua nuova fidanzata, che stavolta è la canadese Marie-Laure Roperc. Con Michelle avevamo parlato della possibilità di avere un figlio e che arrivasse un figlio con l'osteogenesi imperfetta. E io gli dissi, Michelle, sai che se avessi un figlio con questa malattia, io non abortirei comunque. Sei disposto ad accettarlo? E lui mi rispose di sì. Ma quando poi accadde, credo che una parte di lui ne fosse devastata. A part of him, I think, was devastated. La nascita di Alexander, che purtroppo ha la sua stessa malattia, ma che per fortuna è un musicista come il padre, non cambia le sue abitudini. Lui lascia Mary Lore e si sposa con una pianista italiana, Gilda Buttà. Poi divorzia dopo altri 3 mesi. Insomma, sta divorando la vita con una fame incredibile. Probabilmente è cosciente che la sua malattia gli concede ancora poco tempo, però non lo dà a vedere, vuole divertirsi, vuole godere, è un po' un clown a volte dispettoso, un po' maleducato, arrogante, però non ha tempo da perdere per i convenevoli, perché l'orologio continua ad andare avanti. Ho 2 angeli custodi come nei cartoni animati, uno cattivo e uno buono. Talvolta il diavoletto mi dice: fai questo, e quello buono: no, non puoi farlo. La maggior parte delle volte vince quello buono. Ma qualunque sia l'angelo che vince, Michel continua a suonare, e sempre, nonostante tutto, nonostante il dolore, perché la malattia è implacabile. A volte, mentre è in concerto, sente una costola incrinarsi, oppure un dito, insomma, il corpo sta diventando sempre più fragile. E certo, la vita che conduce, fatta di fumo, droga, di alcol, non lo sta aiutando. Sono abituato al dolore, lo conosco. Sento dolore sempre, sono abituato ad avere sempre gli arti doloranti. Insomma, la musica è la sua croce, la sua delizia, gli dà tanto dolore, ma è l'unica cosa che gli regala anche tanto piacere, tante soddisfazioni. Nel 94 la Francia gli riconosce la medaglia di Cavaliere della Legione d'Onore, l'onorificenza più importante. Nello stesso anno vince il premio Django Reinhardt Award. Nell'ultimo periodo di attività riesce a esibirsi in giro per il mondo anche 220 sere in un anno, e sarebbero tante per chiunque, e di certo lo sono per lui. Poco dopo il suo 36esimo compleanno, alla fine di dicembre, si ammala di polmonite. Vuole fare festa assieme agli amici per l'ultimo dell'anno. Il 6 gennaio del 99 muore a New York, con accanto la sua ultima compagna Isabelle. Il suo piccolo corpo riposa oggi al cimitero di Père Lachaise a Parigi. Dare il colpo d'ala a volte è saper reagire a un destino che è stato terribile con noi. È il caso di Michel Petrucciani, che grazie alla musica ha superato tutti gli sgambetti che la vita gli ha fatto e sono stati veramente spietati. Ha saputo volare, anche se, ahimè, non troppo a lungo. Ma ognuno di noi nella sua vita può cadere, ma può darlo quel colpo d'ala che ti porta ad andare in alto come il falco e come il gabbiano. Se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, venite a vedere i miei social, i nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani.